702, Migliaccio di Romagna. Se il maiale volasse, non ci saria danar che lo pagasse, diceva un tale. E un altro, il maiale con le sue carni e con le manipolazioni a cui queste si prestano, vi fa sentire tanti sapori diversi quanti giorni sono nell'anno. Al lettore il decidere quale dei due sproloqui sia il più esatto. A me basta darvi un cenno delle cosiddette nozze del maiale, perché anche questo immondo animale fa ridere, ma solo, come l'avaro, il giorno della sua morte. In Romagna le famiglie benestanti e i contadini lo macellano in casa, circostanza in cui si sciala più dell'usato e i ragazzi fanno baldoria. Questa è anche l'occasione opportuna per ricordarsi agli amici, a parenti, alle persone con le quali si abbia qualche dovere da compiere, imperocché ad uno, per esempio, si mandano 3 o 4 baciuole della lombata, ad un altro un'ala di fegato, ad un terzo un piatto di buon migliaccio. E la famiglia che queste cose riceve si rammenta di fare alla sua volta altrettanto. È pane da rendere e farina da imprestare, direte voi, ma frattanto sono usi che servono a tener deste le conoscenze e le amicizie fra le famiglie. Dopo tale preambolo, venendo a nocco, ecco la ricetta del migliaccio di Romagna, il quale per la sua nobiltà non degnerebbe di riconoscer neppure per prossimo quello di farina dolce che girondola per le strade di Firenze. Latte decilitri 7, sangue di maiale disfatto grammi 330, sapa oppure miele sopraffino grammi 200, mandorle dolci sbucciate grammi 100, zucchero grammi 100, pangrattato finissimo grammi 80, candito grammi 50, burro grammi 50, spezie fini 2 cucchiaini, cioccolata grammi 100, noce moscata 1 cucchiaino, una striscia di scorza di limone. Pestate in un mortaio le mandorle insieme col candito che avrete prima tagliato a pezzetti, bagnatele di tanto in tanto con qualche cucchiaino di latte e passatele per istaccio. Ponete il latte al fuoco con la buccia di limone, che poi va levata, e fatelo bollire per 10 minuti. Uniteci la cioccolata grattata e quando questa sarà sciolta, levatelo dal fuoco e lasciatelo freddare un poco. Poi versate nello stesso vaso il sangue, già passato per istaccio, e tutti gli altri ingredienti, serbando per ultimo il pangrattato, del quale, se fosse troppo, si può lasciare addietro una parte. Mettete il composto a cuocere a bagnomaria e rimuovetelo spesso col mestolo, onde non si attacchi al vaso. La cottura e il grado di densità che fa d'uopo si conoscono dal mestolo che, lasciato in mezzo al composto, deve rimanere ritto. Se ciò non avviene, aggiungete il resto del pangrattato, supposto non l'abbiate versato tutto. Per il resto regolatevi come alla torta di ricotta numero 639, cioè versatelo in una teglia foderata di pasta matta numero 153. E quando sarà ben ghiaccio, tagliatelo a mandorle. Cuocete poco la pasta matta per poterla tagliar facilmente e non lasciate risecchire il migliaccio al fuoco, ma levatelo quando si estrae pulito un fuscello di granata immersovi. Se vi servite del miele invece della sapa, assaggiate avanti di aggiungere lo zucchero onde non riesca troppo dolce e notate che uno dei pregi di questo piatto è che sia mantecato, cioè di composizione ben fine. Il timore di non essere inteso da tutti nella descrizione di queste pietanze mi fa scendere spesso a troppi minuti particolari che risparmierei volentieri. Nonostante pare che ciò non basti, perché una cuoca di un paese di Romagna mi scrisse: «Ho fatto ai miei padroni il migliaccio che sta stampato nel suo pregiatissimo manuale di cucina. È piaciuto assai, solo che le mandorle col candito non ho saputo come farle passare per l'ostaccio. Avrebbe la bontà di indicarmelo?» Garato alla domanda, io le risposi: «Non so se sappiate che si trovano per uso di cucina degli stacci appositi di crine, forti e radi, e di fil di ferro finissimo. Con questi un buon mortaio e olio di schiena si possono passare anche le cose più difficili».